Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel, registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 Archivio Bot. Wender e Fabio Alisei presentano Shuffle, scatti di Polaroid in riproduzione casuale. Nati dal caos. Per quanto ci sforziamo di mettere in ordine, di incasellare l'universo in regole e schemi, dobbiamo rassegnarci alla realtà irrazionale di essere frutto di un cortocircuito, esseri generati dal caso. Dallo stupore per la folgore alla verità rivelata, per tutto il corso dell'evoluzione abbiamo cercato di dare un senso alla nostra presenza sulla Terra, un significato che infondesse valore alla vita, uno scopo al tempo, l'essenza dell'esistenza. Lo abbiamo chiamato Dio, potere, destino. Abbiamo costruito religioni complesse e sofisticate filosofie, senza renderci conto che l'unica divinità esistente era proprio davanti a noi. Set, Loki, Shiva, il dio del disordine. Un signore eterno e potente, capace di ricombinarsi infinitamente in miliardi di variabili simultanee, generatore di vita e di morte al di là del bene e del male, puro e democratico come solo la sua forza può essere, quella partorita dal caso, l'ineluttabile. Forse tutto quello che abbiamo detto è solo un modo elegante per vestire questa puntata di Polaroid, un appuntamento assemblato a caso, i cui elementi si combinano seguendo l'irrazionale, l'impulso randomico, la funzione elementare chiamata shuffle. La sorta ha estratto e incatenato in sequenza 10 scatti del nostro archivio, 10 viaggi nella storia della musica. Non resta che metterci comodi. Inizia Polaroid. Shuffle. Scatti di Polaroid in riproduzione casuale. L'incoscienza e l'allegria di morire d'amore. L'incantevole Giuppi Izzo. Ed è stato allora, proprio lì, proprio lì. Quello è stato il momento. All'improvviso ho realizzato che se non cambiava qualcosa in fretta avrei vissuto una vita in cui il rapporto più importante sarebbe stato quello con una bottiglia di vino. E alla fine sarei morta grassa e sola. E mi avrebbero ritrovata dopo 3 settimane mezza divorata dai cani alsaziani. O sarei diventata come Glenn Close in Attrazione Fatale. Insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Soccia, impacciata, maldestra. Bridget Jones è il paradigma della trentenne single Mutandoni e Gelato, manifesto di una nuova Cenerentola, tutta lavoro e psicanalisi, che molla il cazzo azzurro per un sobrio principe beige. Ma Giuppi è più calda di così. Le basta un tocco di Tarantino, il corpo di Juliet Lewis e una notte sola, dal tramonto all'alba. Ricci, puoi farmi un favore? Leccami un po' la passera, amore, ti prego. Certo. Oppure vivere la vita di altre due bandiere dell'intrattenimento vaginale delle serie di inizio secolo. La ragazza madre, genitrice e amica della figlia adolescente. Sei carina, grocia. Cerca di stare ferma. Perché hai voluto mettermi lo smalto? Beh, perché domani è il tuo primo giorno alla scuola privata. Sì, ma tanto metterà le scarpe e nessuno mi vedrà i piedi. Sì, d'accordo, ma tutti sanno che le ragazze delle scuole private sono cattive e le ragazze cattive hanno sempre lo smalto rosso. E la dottoressa Gray, dispersa nelle corsie dell'ospedale che porta il suo nome, piegata su migliaia di vite fragili da salvare, compresa la sua. Ecco qui. La tua scelta è semplice. Lei o me. Io sono sicura che lei è una gran donna, ma vedi, io ti amo. E in un modo veramente incredibile. Cerco di amare i tuoi gusti musicali. Ti lascio l'ultimo pezzo di torta. Potrei saltare dalla montagna più alta se me lo chiedessi. E ciò che mi porta a odiarti mi spinge ad amarti. Per cui prendi me. Scegli me. Ama me. Io vado da Joe stasera e se tu dovessi decidere di firmare i documenti, mi trovi lì. Ma a noi che abbiamo imparato ad amarla, Giuppi piace così, diretta e sboccata, spontanea e vera come il nostro show. Respect. Grazie, Daniel, mi fa molto piacere saperlo. Ma se restare qui significa trovarmi a 10 metri da te, francamente preferirei andare a pulire il culo a Saddam Hussein. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take F-T-C. Che se ne vada a fanculo. Los Angeles, Casablanca Records, 8255 Sunset Boulevard. Donna è rimasta sola nello studio di registrazione. I microfoni sono aperti, il nastro gira, ingurgitando soltanto silenzio e il fruscio lontano di un condizionatore. Donna è scalza, si accovaccia sulla moquette del pavimento e appoggia la figa su un tallone. Chiude gli occhi, si lascia trasportare dalla base che batte in cuffia, muove il bacino avanti e indietro, lentamente, masturbandosi. Il suo primo disco verrà stampato e durerà 20 minuti, ma il suo produttore ha messo una clausola. Dentro Love to Love You Baby deve esserci un orgasmo di donna, ma non di una qualunque, di Donna Summer. So close to me, there's no place I'd rather. 1978, Filadelfia. Il mondo si guarda fra le cosce e trattiene il respiro. Dice la televisione che l'amore libero ha un nuovo nemico. Si chiama AIDS e uccide. I giovani hanno paura. Paura delle discoteche, del contatto, della musica. Il rock torna in testa alla classifica. La stagione della disco music sta per finire. L'autunno di un genere è alle porte. È freddo, è grigio, è vento e terra, ma il fuoco si è spento. È solo e semplicemente settembre. Shuffle, scatti di Polaroid in riproduzione casuale. Shuffle torna fra poco. Torna fra poco. Per un altro scatto scelto dal caso. Questo è Shuffle. Riproduzione casuale di scatti in formato Polaroid. 1966, Orange County, California. Paul Van Doren è lo stereotipo del sogno americano. Assunto a 14 anni dai grandi magazzini Randy's, con la mansione di lava pavimenti, ha risalito pazientemente tutti i gradi dell'azienda, fino a diventarne il vicepresidente all'età di 36 anni. A quel punto si licenzia e con il fratello James apre un piccolo negozio di calzature fatte a mano sulla East Broadway. Le scarpe dei fratelli Van, o più semplicemente Vans. Sarebbe rimasto se uno studente del Santa Monica College, Leonard Stevenson, non ne avesse comprato un paio a $4.99 per testare un nuovo mezzo di locomozione di sua invenzione, lo skateboard. Piantate su un surf con le ruote, le scarpe dei fratelli Vans invadono i marciapiedi di tutta l'America. Gli scacchi bianchi e neri diventano una bandiera dell'integrazione razziale. Le livree personalizzate conquistano i gruppi rock. Sex Pistols, Slipknot, Motorhead e piedi putrefatti di Eddie, lo zombie degli Iron Maiden. Bye. In Gran Bretagna, le Gazelle girano sui solchi acid jazz di KJ Jamiroquai. E infine, precipitano nel ghetto newyorkese come bandiera dei fratelli dell'hip hop, che sulle loro superstar bianche e nere chiudono perlomeno un centinaio di rime. Ladies and gentlemen, Run DMC. Mary, Mary, I need your hugging. I was a high school loser, never made it with a lady. Till the boy told me something I missed. Then my next door neighbor, y'all know I had a favor, and I gave it to a little kid like this. She told me to walk. 1923, stato del Massachusetts. La fabbrica di galosce e stivali da pesca Converse Rubber Shoes Company è sull'orlo del fallimento quando il suo fondatore, Marquis M. Converse, ha un'intuizione: produrre una calzatura in tela e gomma per il campione di basket Chuck Taylor. Le scarpe si chiameranno All Stars, come la gara di fine anno che coinvolge tutti i migliori giocatori dell'NBA. Per oltre mezzo secolo, le Converse hanno viaggiato sotto i canestri degli Stati Uniti, finché il fenomeno dei Globetrotters, Wilt Chamberlain, non le sdogana come icona pop e accende il rock. Ramones. AC/DC. Clash. Le All Star camminano dal parquet dei palazzetti alle assi di legno dei concerti, leggere, colorate, sempre identiche a se stesse. Fino a quando, in uno scantinato di Seattle, terminano la loro corsa ai piedi del martire del grunge, Kurt Cobain. 1992. Freddy è andato da un anno, spento dall'AIDS come una sigaretta sotto un tacco. Ma l'Inghilterra non dimentica le sue regine, quella di Buckingham e quella di Wembley. Sul palco del Tempio del Calcio, per ricordare al mondo chi e che cosa è andato perso per sempre, sale l'unica voce in grado di sfiorarlo. E vuole qualcuno da amare. Un'altra storia, un'altra istantanea casuale di Polaroid, sempre qui, dopo la pubblicità. Shuffle. Polaroid Shuffle, riproduzione casuale di storia della musica. 1966, Regno Unito. La Swing in London balla sulla terra una musica che arriva dall'acqua, da una radio pirata, su una barca pirata, per sparare mitragliate di rock sotto il culo della regina. Il grilletto lo preme il conte e la gittata varca l'Atlantico e colpisce un'America ferita, arrabbiata, segnata dall'assassinio di un leader nero senza cognome, l'attivista Malcolm X. Il molto onorevole Elijah Muhammad ci insegna che una volta conosciuta la religione islamica e dopo aver conosciuto se stessi, dobbiamo sostituire il cognome da schiavi con una X. La X in matematica rappresenta l'incognita. E dato che siamo stati sradicati, tagliati fuori dalla nostra storia, dal nostro passato, dalla nostra cultura, dalla nostra terra, usiamo la X, l'incognita, finché non torneremo nella nostra terra. Capisco, la ringrazio. Una voce per la realtà, una voce per la fantasia. Basta cambiare maschera per trasformarsi in un mezzo gigante e vegliare sul futuro del giovane mago più famoso d'Inghilterra. Tu chi sei? Rubeus Hagrid, custode delle chiavi e dei luoghi a Hogwarts. Tu sei un mago, Harry. Un mago coi fiocchi, direi. Una volta studiato un pochetto. Oppure, nel ladro più affascinante e ricercato degli Stati Uniti d'America, un artista del furto così cazzuto che la sua banda di soci porta il suo nome. Gli undici di Ocean. Signor Ocean, lei cosa fa di mestiere? Se non le dispiace la domanda. Perché dovrebbe dispiacermi? Due carte. Sono appena uscito di prigione. Ho rubato delle cose. I vostri 500 più altri 2000. Ci sto. Non so cosa facciano 4-9, ma l'asso mi pare una carta abbastanza alta. Merda. Grazie per la dritta su come annusare un problema. Un criminale, certo, ma sofisticato, gentile, elegante. Non come quello sbudellatore protestante con l'occhio di vetro e le mani insanguinate, quel capobanda che chiamano Bill Cutting, il macellaio dei Five Points. Io lo so come funzioni. Tu non sei né caldo né freddo. Quindi, visto che sei solo tiepido, io apro la bocca e ti sputo fuori. Costruisci pure il tuo lurido mondo senza di me. Ho fatto fuori il padre, ora far fuori il figlio. Di' al giovane Fallon che intendo verniciare Paradise Square col suo sangue. Due mani di pittura. Con le sue budella ci decoro la mia camera da letto. Quanto a te, Mr. Temmaniol del cazzo, fatti rivedere ai Five Points e sarai fatto fuori per mano mia. Torna ai tuoi festeggiamenti e lasciami mangiare in pace. Ti ho pagato il giusto. Oggi, dopo più di un secolo, le strade di Manhattan si sono rifatte il trucco. Il crimine si è spinto a nord, nel ghetto. Ha cambiato strada, stile, colore della pelle. Ma New York City è ancora terra di gang. The valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Yeah. everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. '98, Londra. Per prima cosa c'è un clavicembalo. Poi c'è una lettera non spedita ad un amico che è appena morto, Jeff Buckley. C'è un messaggio in segreteria di Madonna che dice più o meno: sì, canterò il pezzo, anche se poi non lo farà. Infine c'è un feto umano, deforme, inquietante, che canta. È un animatronic, un essere sintetico, come la musica che lo accompagna. E tutta la follia dei Massive Attack.